e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buon San Valentino, cara mia. Buon San Valentino anche a te. Tanti auguri. Allora, mediamente, ma ci piace festeggiare? Sì. A noi sì. A noi sì. Noi non disdegniamo. San Valentino. Cioccolatini, cuori rossi in abbondanza, poi, peluche. Anche chi dice di non festeggiarlo, poi alla fine ci tiene un po'. 4-4. Esatto. Se il dono arriva, ci fa piacere. Insomma, per cui se siete innamorati di noi, ditecelo. Cioccolatini, rose a profusione. Noi questa mattina non disdegniamo niente. Naturalmente, se ci volete raccontare anche il vostro San Valentino più bello, siamo pronti naturalmente a ricevere le vostre testimonianze a morire d'invidia. 800 24 00 24, raccontatecene, non storie, come dire, solamente straromantiche, ma anche concrete, di cuore e di denari proprio, se volete. Qual è stato il San Valentino più bello che avete festeggiato? Che dici, lanciamo stamattina questa, certo, questa sfida ai nostri ascoltatori, una sfida di cuore per benissimo poi passare ai denari, perché subito, allora subito partiamo, vedi, due cuori e una capanna. Esatto, ma meglio. Guarda, due capanne, c'era sempre due cuori. C'era una mia amica che mi diceva sempre, io proprio non ci credo più, due cuori e una capanna ormai. In realtà poi parleremo della capanna, perché parleremo del fondo di garanzia statale per consentire alle giovani coppie di mettere su casa. Anche tu, per tutta la parte di cuore, oggi ti l'hai anticipata, dedicherai con il tuo intervento. Vero? Benissimo, ottimo. Partiamo però intanto con la nuda realtà di borsa. Nuda e cruda. Borse positive oggi, non tutte per la verità, ieri è stata una buona giornata, oggi Milano ancora in rialzo dello 0,11%, sono invece un po' più piatte le altre piazze continentali, Parigi meno 0,01%, Francoforte meno 0,09%, Londra meno 0,09%. Abbiamo avuto stamattina una chiusura con un ribasso di oltre un punto a Tokyo, ma soprattutto dobbiamo ricordare quello che è successo ieri sera a Wall Street. Senti qua Nicoletta, gli indici americani, tutti e tre, e per la terza seduta di fila, hanno chiuso all'insegna dei record, tanto che lo Standard & Poor's 500 ha raggiunto una capitalizzazione di borsa di 20.000 miliardi di dollari per la prima volta, superando il valore dell'intero PIL americano. Gli investitori chiaramente confidano ancora nel super annuncio tagliatasse o comunque in materia di stimolo fiscale che farà prossimamente il presidente americano Donald Trump, e oggi i fari sono puntati sulla testimonianza semiannuale al congresso americano di Janet Yellen, governatore della Federal Reserve, e si vedrà se le sue parole faranno aumentare o meno le probabilità di un aumento dei tassi a marzo o maggio. Comunque il Dow Jones ha chiuso con un rialzo dello 0,7% a 20.412 punti. Per l'indice delle 30 blue chip americane è stato il 22esimo record dalle elezioni presidenziali dello scorso 8 novembre. Per lo Standard & Poor's 500, dicevamo, rialzo di mezzo punto a quota 2.328 punti, è stato in questo caso il 14esimo record dall'Election Day. Nasdaq sotto i riflettori perché la tecnologia soprattutto a volare, rialzo dello 0,52% a 5.763 punti. Per l'indice tecnologico è stato il 23esimo record da quando Trump ha vinto le elezioni. A spingere il Nasdaq, Apple, che ha chiuso ad un livello mai visto prima, $133,29, grandi attese per il nuovo iPhone, ma insomma è un gruppo che piace sempre, che continua a volare. Quindi questo è il focus su Wall Street. Per quello che riguarda Milano stamattina, abbiamo alcuni titoli che nelle ultime sedute hanno sofferto un po', oggi rimbalzano. UbiBanca più 2,10, tanto per cambiare abbiamo in prima fila sempre le banche a mettersi in evidenza. Popolare dell'Emilia Romagna più 1,89%, continua la speculazione su Generali più 1,49%, ma il mercato attende una mossa di Intesa San Paolo appunto per andare alla conquista del Leone di Trieste. Chi scende invece stamattina di oltre un punto? STM, CNH Industrial, Telecom Italia e Saipem. Allora andiamo al nostro approfondimento della nostra rassegna stampa, perché si apre oggi pomeriggio alle 17 a Roma Consulenzia 2017, la kermesse annuale organizzata da ANAS, l'organizzazione che in Italia rappresenta i consulenti finanziari, quelle figure alle quali ci rivolgiamo per aiutarci intanto a stabilire i nostri progetti di vita finanziari, certo, in particolar modo, e poi ci aiutano a trovare la strada per raggiungere questi obiettivi, questi progetti di vita. 12.000 gli iscritti all'associazione, ma in realtà sono molti di più quelli che operano nel nostro paese e iscritti all'albo dei consulenti. Il presidente di ANAS è Maurizio Bufi, che salutiamo. Presidente, buongiorno. Tanto non avete ancora iniziato, giusto? Già qualche riunione di lavoro stamattina. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, riunioni già ce ne sono, già da ieri, perché noi abbiamo riunito tutti i dirigenti dell'associazione proprio in vista dell'apertura di consulenza che avviene oggi pomeriggio, come giustamente diceva, e siamo tutti in fibrillazione. Ecco, Presidente, allora facciamo subito a beneficio dei nostri ascoltatori un biglietto da visita della manifestazione di quest'anno, anno che si apre con delle sfide importanti, intanto che riguardano il settore bancario italiano che continua a ristrutturarsi, e visto che i consulenti lavorano per il sistema bancario e finanziario italiano, chiaramente non sono indifferenti a questi cambiamenti. E poi abbiamo l'altro grande tema per voi, vale a dire MiFID 2, la nuova direttiva sui servizi finanziari che chiama ad una forte responsabilizzazione della categoria. Presidente, da dove cominciamo? Cosa devono sapere i risparmiatori sul vostro appuntamento di questi 3 giorni? Sì, volentieri. Intanto mi lasci dire che noi siamo alla 4ª edizione di Consulenza qui a Roma. Un'edizione che è cresciuta di anno in anno. Quest'anno 2017 ci attendiamo oltre 2500 partecipanti, l'anno scorso erano 2200 e l'anno precedente ancora meno, quindi siamo in un trend rialzista, un po' come le borse, come Wall Street prima. Esatto, quindi infatti sono di buon auspicio. Di che cosa parleremo? Parleremo sicuramente dei temi d'attualità, come abbiamo fatto anche gli anni scorsi, ma direi che quest'anno in modo particolare, perché lei giustamente richiamava i temi della MiFID, cioè della direttiva, o meglio della seconda versione della direttiva europea sui servizi di investimento, a cui dedicheremo il convegno inaugurale e a cui seguirà poi il convegno istituzionale del giorno successivo. Quindi temi di grande attualità. Perché sono di grande attualità? Beh, intanto perché impattano appunto sul sistema finanziario in generale in Europa, perché hanno a che vedere anche con il mondo bancario che sta attraversando sicuramente un periodo di particolari criticità, almeno da un certo punto di vista, ma soprattutto perché riguardano il presente e il futuro dei professionisti e dei consulenti finanziari che appunto operano sul mercato e accompagnano sempre di più le scelte di investimento dei risparmiatori e degli investitori italiani, soprattutto quando si tratta di pianificare nel proprio ciclo di vita. Quindi temi veramente di grande rilevanza. Certo, Presidente, MiFID 2 è un tema abbastanza complicato anche da trasmettere naturalmente ai nostri ascoltatori, ma il nodo centrale del nuovo cambiamento che arriverà riguarda un po' la remunerazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Sono gli ex promotori finanziari, anche se adesso ormai questa definizione sta andando appunto ad essere eliminata dal gergo della vostra attività, siete tutti consulenti finanziari. C'è questa grande distinzione che riguarda quelli che lavorano o in futuro lavoreranno su esclusiva base indipendente e su base non indipendente. Mi rendo conto che appunto è abbastanza complesso da far percepire ai nostri ascoltatori, ma siccome con voi si interfacciano, cosa devono sapere su questo, su questa parte della novità che introdurrà appunto MiFID? Sì, la MiFID 2 sostanzialmente rafforza tutti i presidi relativi alla tutela del risparmiatore. Già lo faceva la MiFID 1, ma lo fa a maggior ragione la 2, proprio perché impone a tutti gli intermediari degli obblighi di trasparenza, intanto per quello che riguarda proprio i costi delle prestazioni, in questo caso della prestazione del servizio di consulenza. Senza addentrarci nel campo molto tecnico della prestazione, sì, del servizio su base indipendente o su base non indipendente, quello che è importante è che la logica, l'approccio alla consulenza è quello che si sta affermando e che si affermerà sempre di più. Poi questo potrà avere dei risvolti anche dal punto di vista di come gli operatori vengono remunerati, e sempre più viene disciplinato anche il conflitto di interessi, che tra l'altro noi gestiamo già da molto tempo, devo dire con ottimi risultati, ma che vieppiù viene considerato come un elemento discriminante tra una prestazione che non è di natura consulenziale e una prestazione che lo è. E crediamo, certo, di avere delle carte in regola per fare bene. La aspettiamo presto naturalmente per raccontare proprio con qualche dettaglio in più tutto questo. Un'ultima domanda, Presidente, una nostra grande ossessione qui a cuore denari è tutto il tema dell'educazione finanziaria. Non facciamo che raccontare delle iniziative che si fanno in Italia per provare a rendere sempre più consapevoli gli italiani delle loro esigenze di risparmiatori e anche delle loro nozioni appunto su questo tema, che a seconda di tutta una serie di indagini che riportiamo spesso sono ancora appunto un po' troppo limitate. Voi avete fatto tanto, so che avete delle novità da raccontare anche a proposito dei vostri progetti futuri, del vostro impegno appunto nel mondo della scuola, perché già state portando avanti l'iniziativa economicamente, poi avete anche uno spettacolo. ostacolo nell'ambito di consulenza. Mogli e buoi. Ecco. Mogli e buoi, sì, è previsto il pomeriggio del giorno 16, uno spettacolo di educazione finanziaria che abbiamo costruito ad hoc, tra l'altro anche questo rafforza la nostra presenza qui a Roma, perché già l'anno scorso avevamo immaginato qualcosa di simile, ma ogni anno cerchiamo di fare meglio. È vero, sta diventando anche, posso usare lo stesso termine, la nostra ossessione, nel senso che c'è bisogno di educazione finanziaria, e mi lasci anche dire che finalmente il legislatore italiano ha previsto una normativa ad hoc per quello che riguarda attività di educazione finanziaria, e noi saremo tra i primi a sicuramente esercitare questa facoltà, cioè di accompagnare le scelte degli italiani nel loro percorso di investimento, e con ciò fare anche educazione finanziaria. Quindi un tema prevalente, un tema importante, un tema che presidiamo. Buon lavoro, Presidente, per questi tre giorni. Grazie, a presto. Auguri. Auguri, naturalmente. Sì, signor Buffi è sposato. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Tra poco. Cuore e denari. Allora, rassegna di cuore, si esatto. Parla di cuore e quindi e ci stavamo anche divertendo un po' già con le prime testimonianze che arrivano. Parliamo di San Valentino, sì. Che è uno dei santi più amati dagli italiani, non solo perché viene celebrato a qualsiasi latitudine come il giorno degli innamorati. Saranno 12 milioni gli italiani a festeggiarlo, secondo Confesercenti, tanti, ma un po' meno rispetto agli anni passati, precisamente al 2015, quando c'è stata l'ultima rilevazione. Il 10% in meno, difficile quindi dire se la riduzione degli innamorati in festa per San Valentino sia da attribuire a questioni di cuore, esatto, o di denari, esatto. Oppure anche al calendario, perché il martedì è un giorno un pochino scomodo. Comunque sono le 10:46, avete ancora tempo per cambiare idee, magari organizzarvi una bella serata, esatto, con il vostro innamorato. E ve ne siete dimenticati, perché pure questo capita, eh? Beh, siamo qua anche per questo, esatto. 800 24 00 24. Carmelo, tutto a posto? Fiori, cioccolatini, che cosa regalate, che cosa vi aspettate di ricevere in regalo? Allora, il nostro numero verde anche per San Valentino, 800 24 00 24. Ringraziamo tutti gli amici che ci stanno mandando via WhatsApp cuori e messaggi d'amore. Ringraziamo anche invece Marzio, che è stato un tempestivo, molto tempestivo, per mandarci un messaggio poco carino, ma noi lo amiamo ugualmente. Allora, festeggiate, non festeggiate, dite la verità, perché Deborah, lo anticipavamo, succede un po' come alcuni programmi, anche San Valentino, tutti dicono no, non lo festeggio, non c'è bisogno, San Valentino è tutti i giorni, oppure è tutta una trovata di marketing, e poi alla fine nell'intimità della casa si va di romanticismo e la coppia sicuramente ci guadagna, ma attenzione, anche la salute. Allora, ricerca alla mano, ci racconta tutto la nostra amica dottoressa Maria Giovanna Luini, medico comunicatore scientifico e scrittrice. Ciao Giovanna, ciao. Bentornata. Ciao, buon San Valentino con le mie amate Nicoletta e Deborah. Eccola. Fantastico. Allora, d'amore, tutta la mia vita sei tu. Allora, ha più di 80 anni questo brano, sì. Se li porta però benissimo, perché è del 32, è stato scritto da Cesare Andrea Bixio e Ennio Neri per la voce di Vittorio De Sica, ve lo ricordate, che nel film Gli uomini che mascalzoni. E poi il brano è stato interpretato nel corso del tempo da vari artisti, tra cui anche Mina, Stefano Bollani e Giorgio Gaber. Giovanna, perché sì, parlami d'amore? Perché vogliamo parlare di parole, parole sì, dette, scritte, cantate. Parlare d'amore aiuta il cuore e piace anche al cervello. Ma assolutamente, la scienza dimostra, e le ricerche sono tante, potrei citarvene una, in realtà ce ne sono tante, la scienza dimostra che le parole che diamo e riceviamo muovono neurotrasmettitori e ormoni, migliorano il nostro sistema immunitario o lo peggiorano, attenzione a quello che diciamo, e sono quindi amiche del cervello, del cuore e di tutti gli organi che dipendono nella loro funzione da quegli ormoni che noi muoviamo. Allora, supponiamo che io dica a qualcuno ti amo oppure ti voglio bene e lo dica con la mia vera intenzione ed energia dentro, io sto aumentando il livello di protezione immunitaria di quella persona e sto anche proteggendo il suo cuore. Quindi le parole hanno non solo un peso, ma anche una vera e propria carica salutare, oppure negativa. Mi rifaccio al messaggio del signor Marzio, non l'avrei nemmeno citato, sapete perché? Perché chi usa parole che non sono opportune non deve avere spazio nella nostra salute. Questo mi piace, però noi a marzo lo festeggiamo ugualmente. Gli auguriamo un buon San Valentino, perché penso che le persone che hanno bisogno di dire delle cose negative magari in questo modo tradiscono una mancanza d'affetto, d'amore, nel presente, nel presente o nel passato. Quindi noi festeggiamo anche Marzio. Allora, fare l'amore fa bene all'amore, fare l'amore fa bene anche alla salute. L'attività sessuale, secondo varie ricerche, sarebbe un portentoso rimedio contro numerosi disturbi. Ma quali sono i disturbi che si possono prevenire o curare sotto le lenzuola? Scherzi a parte, Giovanna, che cosa c'è di vero nelle ricerche che descrivono il sesso come la panacea di tutti i mali, attribuendo gli effetti benefici dal sonno, alla memoria, al potenziamento del sistema immunitario? Ma intanto dobbiamo pensare che l'attività sessuale è una nostra attività fisiologica, cioè una necessità naturale, non è qualcosa che noi abbiamo in più, una velleità. Se consideriamo mangiare, bere, dormire e avere altre funzioni fisiologiche che non menziono come necessità vitali, dobbiamo includere anche l'attività sessuale. Questa è la base per capire la scienza. Fare l'amore, cioè avere un'attività sessuale, ritorniamo a quegli ormoni, non solo muove gli ormoni, ma in realtà ci tiene in esercizio, tiene i nostri organi giovani, cioè li tiene vitali. Gli organi sono fatti per funzionare, quindi tutta la sfera genitale maschile e femminile, l'apparato circolatorio, riduce la pressione arteriosa, il cervello, perché il cervello prova soddisfazione, desiderio, piacere e rimane, diciamo, in una condizione di maggiore giovinezza, funziona, mettiamola così. La memoria è molto associata al nostro sentirci utili, vitali, giovani, ma giovani non nel senso, scusatemi, giovanilistico del termine, perché si è giovani anche a 75-80 anni volendo. Il punto è funzionare, il nostro corpo deve funzionare. Noi siamo nati non per impigrirci, l'attività ma per aprirci a esperienze sempre nuove. Esattamente. Una cosa è certa, Giovanna, e lasciami ricordare anche il nostro appuntamento dell'ultimo venerdì del mese con Salute Uomo, Andrea Salogna, a cui hai partecipato, mi sembra, anche tu. Sì. Lo ripetiamo spesso, soprattutto negli uomini, una buona e soddisfacente attività sessuale spia anche della salute cardiovascolare. In altre parole, e per leggere la notizia al contrario, disturbi della funzione sessuale maschile possono essere sintomi precoci di coronaropatia. Ma di tutto questo, naturalmente, trovate degli appuntamenti sulle pagine di Salute Uomo e noi continuiamo a festeggiare San Valentino. Allora, dopo dire, fare, cioè baciare con Prince, il più romantico dei gesti d'amore ha provati effetti terapeutici, ma deve essere, Giovanna, un bacio come si deve, e ma vale ancora di più naturalmente se è ricambiato. Un bacio ci salverà, Giovanna. C'è una splendida intervista anche oggi su Repubblica a una ricercatrice che sottolinea appunto gli effetti del bacio e li mette in relazione anche con la salute del nostro microbioma. Giovanna. Assolutamente, il bacio e anche l'abbraccio, mi permetto di aggiungere, quando usati, permettete il verbo, con tanta emozione dentro, cioè quando sono sinceri, sentiti, spontanei, quando hanno dentro l'amore e anche l'amicizia, l'affetto, sono una reale cura. Sapete che esiste, per esempio, la cura dell'abbraccio, che viene usata in tanti centri oncologici realmente. Il bacio è il trasporto della verità, il trasporto del sentimento, il trasporto dell'emozione. E non sto dicendo niente di straordinario, perché tutti noi ci accorgiamo quando i baci sono forzati o un gesto è forzato. La nostra salute dipende dal punto di vista soprattutto immunitario. E anche ho scoperto dal punto di vista intestinale, cioè ci sorrido, ma è vero. E certo. Dai nostri livelli di serotonina, cioè dal nostro livello di soddisfazione. E allora, se qualcuno ci bacia e noi sappiamo che quel bacio è una specie di proforma, lo capiamo, lo sentiamo, e nel nostro corpo non solo non succede niente, ma c'è una lievissima flessione in giù dell'umore documentata dalla scienza. Se siamo baciati da qualcuno che veramente prova per noi qualcosa, succede il contrario, cioè dentro il nostro corpo si scatena una reazione globale che influisce su tutti i maggiori sistemi, cardiovascolare per esempio, ma anche neurologico, e tutto ciò che è positivo va in su. È una cosa istantanea, non si tratta solo di adrenalina dell'emozione, è proprio un sistema che si attiva e protegge la nostra salute. Chiaramente il bacio dato e ricambiato con amore dentro è la perfezione. A volte può sembrare strano che un medico consigli alle persone che segue si dedichi all'amore, e va bene, si dedichi all'amore, basta che sia amore, e questo è un consiglio che a volte viene un po' criticato, perché sembra che il medico dica devi, tra virgolette, peccare. In realtà l'emozione legata al bacio d'amore è un vero e proprio agganciarsi alla vita, è un vero ripristinare un equilibrio immunitario ormonale che in qualche situazione davvero può contribuire alla salute, o quindi, al recupero della salute. Amiamoci, abbracciamoci, baciamoci, sì. E salutiamo anche il prossimo ospite che ci accompagnerà nella seconda parte della parte dedicata a San Valentino e all'amore. E in linea con noi abbiamo il dottor Aquila, che di parole, di pensieri d'amore e sull'amore è un grande esperto. Buongiorno dottor Aquila. Buongiorno e buongiorno a tutti i suoi ospiti e ascoltatori. Allora, con lei lavoreremo sull'amore, cercheremo di capire che significato diamo all'amore, come è cambiato anche l'amore nel corso della nostra vita, quindi tutti pronti con il dottor Aquilar e naturalmente con le vostre dediche. A tra poco, grazie a Giovanna Luini per essere stata con noi, GR, e torniamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi dub! Anche Radio 24 è in digital radio. Cuore e denari. You were always on my mind. Allora, siamo tornati, Deborah, tutto si ripete come da copione, e sì, anche noi oggi, un po' contagiate dal clima sanvalentinesco, parliamo d'amore. E in questa prima parte di Cuore Denari, che è dedicata a tutti gli innamorati e per estensione a tutte le forme d'amore. Ne parliamo col dottor Francesco Aquila, psicologo, psicoterapeuta cognitivo e nostro esperto del Daily Lab. Grande esperto, ricordo solo alcuni dei titoli dei suoi libri: Psicoterapia dell'amore e del sesso, La coppia in crisi, istruzioni per l'uso, La coppia in crescita, fino all'ultimo, Parlare d'amore, Psicologia e psicoterapia cognitiva delle relazioni intime. Le cito alcuni perché ogni volta che il dottor Aquila interviene in trasmissione, molti dei nostri ascoltatori ci scrivono di dare dei titoli dei suoi libri, che metteremo naturalmente nella nostra pagina, potete seguirlo sul Daily Lab. Tra l'altro, dottor Aquila, proprio sul Daily Lab, lei ha scritto un pezzo sulla psicologia del Festival di Sanremo. E allora, se lei dovesse dedicare un brano sanremese alla sua innamorata, quale sceglierebbe e perché? Perché si dedicano anche canzoni. Ma certo, ne sceglierei due, proprio la prima e la seconda. Nel senso che Occidentali Scarma di Francesco Gabbani e Che sia benedetta di Fiorella Mannoia. La prima perché è vitalità, allegria, ironia, movimento ed energia, da ballare insieme alla propria innamorata cantando e saltando. E la seconda, Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, perché ci ricorda di goderci la vita che abbiamo, commuovendoci insieme proprio perché siamo vivi. Il che sembra banale, ma molto spesso tendiamo a dimenticare. È vero. E quindi le due braccia dell'amore, l'ironia e l'elegia. Anche questo è amore. Allora, continuiamo insieme a fare delle riflessioni a voce alta sull'amore, sul nostro modo di intendere, di vivere il più dibattuto e complesso sentimento di tutti i tempi. 800 24 0024, dottor Aquila, è difficile avere così parlare di amore, anche se, come ha sottolineato Giovanna Luini, le parole d'amore fanno bene all'amore, ma anche alla nostra, al nostro benessere, alla nostra salute. Ci dia un po' un piccolo aiuto per cominciare, per orientarci. Certo, intanto potremmo cominciare chiedendo ai nostri ascoltatori che cos'è l'amore per ognuno di loro e anche che cos'era l'amore per loro qualche tempo fa, perché il concetto di amore si evolve nel tempo rispetto all'esperienza. Le metafore che ci vengono in mente spiegano meglio di qualsiasi discorso l'evoluzione del nostro sentimento di amore. Infatti l'amore è unione, nutrimento, bene prezioso, forza fisica, forza naturale, magia, follia e rapimento, ma è anche e soprattutto una combinazione di intimità, passione e impegno. Quindi la domanda agli ascoltatori è di completare la frase che sembra la più banale del mondo: l'amore è puntini puntini e anche l'amore era per me puntini puntini, ma poi ho capito che... Perfetto, allora l'amore è puntini puntini. 800 24 0024, potete anche scriverli mandando i vostri messaggi al 349 238 6666 oppure su WhatsApp. Dottor Aquila, tra l'altro immagino che l'amore sia uno dei temi, argomenti, problemi, non so come definirlo, insomma, che entrano più frequentemente nello studio di uno psicoterapeuta. Lei di amori ne sente raccontare? Oh mamma mia, Carmelo, nel giorno di San Valentino mi ha preso a sberle il microfono. Ne senti di raccontare di tutti i colori: amori passionali, amori raffreddati, amori dimenticati, amori che ci fanno soffrire. Sicuramente, infatti fare psicoterapia è anche parlare d'amore, dell'amore in tutti i sensi, e anche se l'amore romantico nella maggioranza dei casi prende il sopravvento nel dialogo psicoterapeutico, perché in un contesto protetto come quello della psicoterapia e con un interlocutore attento come dovrebbe essere lo psicoterapeuta, parlare dei propri sentimenti d'amore aiuta a capirli meglio e anche a modularli se sono fonte in qualche modo di sofferenza. Allora, intanto leggiamo un messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore, che vogliamo così portare alla vostra attenzione, perché ci ha chiesto un aiuto e l'ha fatto via WhatsApp. È un ragazzo giovane, ha 24 anni, è fidanzato da 6 e ci scrive che sente che la sua ragazza non trasmette più l'amore che vorrebbe, un po' perché è meno affettuosa di me, e poi aggiunge: è più da un anno che non pratichiamo, consigli? Allora, dottor Aquilar, il nostro ascoltatore entra in studio da lei, è giovane, è 6 anni che porta avanti questo amore, quindi iniziato penso al liceo, perché i conti sono fatti, si fanno semplici, ma ecco, c'è una sorta di mortificazione, non è affettuosa come lo sono io, quindi un modo diverso di manifestare l'amore. Nello stesso tempo sottolinea che è un anno che non hanno più rapporti, e quindi questo sicuramente è un segnale che nelle coppie non va trascurato. Dottor Aquilar. Beh, intanto bisognerebbe solidarizzare con questo ragazzo, perché ovviamente è dispiaciuto di questo allontanamento della sua ragazza, e bisognerebbe dargli la possibilità di raccontare quanto è doloroso per lui, in tutti i dettagli, vedere questa persona che in qualche modo si allontana e che con il segnale dell'astinenza forzata dà un messaggio abbastanza chiaro. Poi si tratterebbe di rinegoziare le fonti del loro rapporto, di parlare apertamente con la ragazza e di chiederle in qualche modo che cosa sta provando e perché sta in questa fase di allontanamento. Può darsi che la ragazza abbia paura di dirgli che lei gli vuole moltissimo bene ma non lo ama più. Oppure può darsi che ci sia un problema, un conflitto sotterraneo che la ragazza non riesce ad esprimere e che, dandole la possibilità, lei finalmente potrebbe dire, e a quel punto magari riescono a trovare una soluzione comune. E intanto allora continuate a scriverci la vostra ricetta dell'amore. L'amore è che cos'è per voi? E Mario, sposato da 30 anni, Deborah, scrive: l'amore è quella cosa che prima ti fa sentire le farfalle nello stomaco e poi ti dà la forza per continuare a condividere la vita. Quindi passione e impegno, queste sono le due parole che possiamo così sottolineare dell'intervento di Mario, che dottor Aquilar, lei ha già individuato anche in qualche come modo il nutrimento reciproco, perché se dà la forza è nutrimento, parlavamo prima delle metafore significative dell'amore. L'amore può essere anche un nutrimento e le farfalle nello stomaco possono trasformarsi nel tempo in una condivisione affettuosa, anche se sarebbe buon segno se ogni tanto le farfalle nello stomaco le sentissimo anche con l'andare del tempo. Per poter amare, ci scrive Marco, bisogna prima amarsi. Bravo Marco, credo che sia una regola fondamentale. Assolutamente sì, ma il problema è che molte persone non riescono ad amarsi e anche molte persone non sanno esattamente che cosa sia amare l'altra persona. C'è un problema anche di competenza nell'amore che si acquisisce nel tempo e si acquisisce anche imparando. Alcune persone pensano che l'amore dovrebbe derivare da una specie di scienza infusa naturalmente biologica dentro di noi. Non è così. C'è una competenza nel mettersi nei panni dell'altro, nel capire il punto di vista dell'altro e soprattutto nel capire il punto di emozione dell'altro, che molto spesso è diverso dal nostro. Se non si fa questo esercizio di superamento dell'egocentrismo cognitivo, è difficilissimo portare avanti una relazione amorosa con soddisfazione. Dottor Aquilar, dalle nostre scelte, dalle nostre storie d'amore, anche dal modo in cui si sono costruite o sono finite o si sono spente, possiamo anche ricavare delle informazioni importanti su di noi. Ritorno all'ascoltatore che ha sottolineato che per amare bisogna amarsi. Persone che non si amano tendono a ripercorrere anche nelle scelte affettive ed emotive dei modelli che uno psicoterapeuta conosce bene. Bravissima, proprio perché sono abituati a non essere amati, tendono a scegliere una persona che non li amerà, perché nel loro schema mentale, interpersonale e affettivo l'amore è sostanzialmente essere ignorati o addirittura ricevere continuamente conflitti. Proprio per questo è importante che nel percorso psicoterapeutico le persone imparino a differenziarsi dalla loro esperienza iniziale che ne aveva informato i concetti e le emozioni e ad allargarsi anche a nuove modalità di apprendimento, anche di apprendimento dei sentimenti. La psicoterapia in certi modi è anche una scuola sentimentale, un'educazione sentimentale che ci aiuta meglio di quella di Flaubert a comprendere l'altro e a comprendere noi stessi e le nostre esigenze. Allora, dottor Aquilar, volevo così seguire un po' una traccia, ma arrivano i nostri ascoltatori con delle tantissime stimoli e riflessioni che gliene prepongo alcuni e da questi proviamo a dare delle ulteriori riflessioni. All'inizio un sentimento, ci scrive un ascoltatore, poi un sacrificio. Il nostro ascoltatore sta in una fase di difficoltà, perché se lo vive come un sacrificio, probabilmente lui delle tre dimensioni che dicevamo prima, l'intimità, la passione e l'impegno, vede soprattutto l'impegno. Se è un sacrificio compensato da momenti di poesia, di entusiasmo e di gioia, va benissimo, perché non è la relazione romantica che è un sacrificio, è la vita, infatti è stata chiamata la terra Valle di Lacrime, non Disneyland. Ma se invece il sacrificio rimane l'unica dimensione presente, forse vale la pena di rivedere la relazione o anche di metterla in discussione. Allora, Riccardo, l'amore non è guardarsi negli occhi, ma è guardare insieme nella stessa direzione. Meraviglioso. Questa il nostro piace. Preferito, sì. È vero che è guardare insieme nella stessa direzione, ma è anche guardarsi negli occhi. Perché se io guardo insieme nella stessa direzione, la dimensione del progetto prende il sopravvento sulla dimensione dell'intimità e qualche volta prende il sopravvento, come si vede spesso nelle vite delle persone che seguiamo in psicoterapia cognitiva, prende il sopravvento sulla vita privata. Alcune coppie sono concentrate sul costruire la casa, il progetto, il lavoro, i figli, eccetera, e sostanzialmente si dimenticano l'uno dell'altro, impoverendosi. Quindi va bene guardare insieme nella stessa direzione, ma ogni tanto fermiamoci. Guardatevi negli occhi. Prendersi una piccola pausa. Dai, una piccola pausa. L'amore è il sempre nuovo, il sempre quello, ci scrive Luigi. Fidanzatini al liceo nel 62, ora quasi alle nozze d'oro, 4 figli e 5 nipoti e litighiamo ancora. Dottor Aquilar, c'era anche la canzone, l'amore non è bello se non è litigarello. Bisogna imparare a litigare per tenere vivo anche l'amore. Il conflitto sicuramente rappresenta l'occasione di crescita, perché attraverso il conflitto noi siamo costretti, cosa che non facciamo mai proprio volentierissimo, a vedere le cose anche da un altro punto di vista. Naturalmente il conflitto è come il sale nel cibo, deve essercene un poco ma non troppo. Quando ce n'è troppo rovina tutta la nostra pietanza. Quindi va benissimo godersi il conflitto e probabilmente il nostro ascoltatore ha un dosaggio adeguato di conflitto, in cui ci si scambia, ogni volta che ci si scambia conflitto ci si allarga la mente, però poi ci si ritrova e si produce non solo la famiglia ma anche, speriamo, una vita emozionale intensa tra le due persone. Può esistere l'amore senza il sesso? Ci scrive un'ascoltatrice. Io amo mio marito, ma non c'è mai stata una grande passione. La passione è stato uno dei tre ingredienti che il dottor Aquilar ha proprio individuato nella ricetta dell'amore. Non c'è mai stata una grande passione o una grande chimica. I miei genitori avevano una grande intesa sessuale, ma fuori dal letto non andavano proprio. Allora, questo è un temone, dottor Aquilar. Ci sono delle coppie che tengono proprio, sono unite anche da questa chimica, come la definisce la nostra ascoltatrice, questa attrazione, questa passione, altre che sembrano assolutamente indifferenti a questa dimensione della coppia. Sicuramente può esistere l'amore senza il sesso, che viene normalmente chiamato amore trattino amicizia, e naturalmente nell'esempio del signore in questione lei lo faceva risalire ad una problematica della sua famiglia di origine. Probabilmente esplorando in psicoterapia i temi della famiglia di origine forse si riuscirebbe a sciogliere questo nodo. Il punto è che può andar bene se entrambi sono d'accordo nella modalità di utilizzare 2/3 delle condizioni del legame d'amore, rinunciando ad una terza parte che tutti e due vorrebbero evitare. È improbabile, ma è possibile. L'altra possibilità è invece di fare i conti con la passionalità di ciascuno di loro, delle due persone, e di andarsi a domandare che cosa è successo che l'ha spenta, perché se la riaccendiamo funziona ancora meglio. Allora, dopo 19 anni di amore, 13 di matrimonio e 3 figli, mi sembra non siano passati solo 6 mesi. Adesso i nostri ascoltatori fanno a gara a essere più romantici, ci piace anche Stefano. Attenzione, intanto saluto il dottor Gualerzi, come poteva mancare in una puntata, il nostro cardiologo, esperto anche di alimentazione. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Non solo afrodisiaca. Allora, scusi dottor Gualerzi, ma noi abbiamo in sospeso un ragazzo di 24 anni di cui, esatto, abbiamo raccontato su suo invito la sua storia. Ci scrive che noi abbiamo parlato e siamo entrambi determinati a risolvere la situazione. Quindi il nostro è un problema di sesso. Diciamo che lei probabilmente per un trauma ha un certo rifiuto. Io provo a farla aprire parlando piano piano e a piccoli passi. Vado bene così? Certo che va bene così, ma non sono il dottor Aquilar. Dottor Aquilar, certo, il nostro ragazzo così accompagna la sua compagna, scusate il bisticcio di parole, la prende per mano per affrontare una situazione che in questo momento crea un disagio nella coppia. È proprio quel guardarsi negli occhi e guardare avanti che è la ricetta dell'amore. Sì, ma è anche imparare a comunicare meglio. Infatti c'è il libro precedente al parlare d'amore che si chiamava Parlare per capirsi. Allora, perché parlare per capirsi, lo possiamo mandare al nostro ragazzo di 24 anni? Parlare per capirsi del dottor Aquilar? Dottor Aquilar? Sì, certo, come certo, no. Okay. Certamente. Allora, grazie al dottor Aquilar, anzi resti con noi, perché con il dottor Gualerzi, che l'amore faccia bene al cuore, lo abbiamo detto, svolge una funzione protettiva e preventiva. L'amore fa benissimo, libera sostanze che il cuore, diciamo, ama, apprezza e, diciamo, lo fanno ringiovanire. Dottore, tra l'altro abbiamo parlato anche di attività sessuale, ne ha parlato anche la sua collega, non per essere, per ritornare sul tema, ma insomma ha tanti vantaggi, è sicuramente una cartina tornasole dell'affinità di coppia, ha vantaggi anche per la salute e fa bruciare anche un po' di energia, e quindi se stasera facciamo una cenetta un pochino più calorica è anche, diciamo, un modo per... Assolutamente, diciamo che avere un rapporto sessuale più o meno equivale a fare 2 piani di scale a piedi, quindi diciamo un bel esercizio e fa consumare molte calorie. Ma neanche tanto, pensavo un po' di più. Ecco, abbastanza lunghe. 2 rampe però di scale. Non rampette, dottor Gualerzi, rampone. Fate di corsa, con i pesi anche alle caviglie. Cioè, tanto i polsi sono sopra le allora, spalle. Perché, dottor Gualerzi, io vorrei trascinarla a parlare di cibi che vantano per tradizione un potere afrodisiaco. Le correnti sono tante, varie, spesso contrastanti, evidentemente, no? ci ricamiamo un po' sul potere afrodisiaco dei cibi, ma vogliamo sapere, lei che è un grande esperto di superalimentazione, che cosa ne pensa? Beh, penso che la maggior parte dei cibi che viene ritenuto afrodisiaco lo è soprattutto perché li mangiamo in condizioni in cui siamo molto ingaggiati mentalmente. È logico che mangiare caviale, aragosta o champagne ha un potere eccitante sicuramente migliore rispetto a mangiare un brodino, quello tipico dell'ospedale. Quindi obiettivamente molto il setting determina la tipologia del cibo, di per sé determina l'aspetto afrodisiaco. In realtà poi esistono invece molti cibi che hanno davvero questa funzione perché aiutano attraverso la stimolo della produzione di ormoni che da una parte vasodilatano, dall'altra parte ci attivano mentalmente, dall'altro ci danno il buon umore e poi hanno anche un'azione sugli ormoni sessuali, e quindi tutti questi alimenti, se mangiati in giuste dosi, in giuste quantità, possono stimolare il desiderio sessuale e renderci anche più prestanti e più, diciamo, abili a avere un rapporto sessuale con i fiocchi, diciamo. Con i fiocchi, dice il dottor Guarersi, con il cuore, dico io. Dall'ultimo rapporto di Coldiretti leggiamo che è in atto un vero e proprio boom dei cibi dell'amore. Vanno forte curcuma, zenzero, anche se Coldiretti invita a non dimenticare i cibi della tradizione contadina made in Italy, come peperoncino in testa. Sedano, sì. L'avresti mai detto? No, ecco, e invece c'è pure il sedano e poi il pistacchio. Bene, anche il pistacchio avrei detto, però. Beh, ma sai, i semi oleosi comunque fanno bene per tutto. Dottor Gualersi. Sì, sono tutte sostanze che rientrano infatti nel grande capitolo degli antiossidanti. Contengono quasi tutti il minimo comune denominatore, a parte il peperoncino che agisce avendo un'azione vasodilatatoria, no? E gli altri hanno un'azione, contengono arginina e trittofano, che sono sostanze che facilitano la produzione di ormoni come l'ossido nitrico, come la serotonina, che hanno tutti azioni vasodilatatrici, quindi in questo caso molto più utili per l'uomo, ma anche la serotonina invece gioca un ruolo molto importante sul piacere, ed ecco che appunto mangiando queste cose gioca il fatto. Tra l'altro il sedano era anche in 9 settimane e mezzo, se ricordo bene. Ah, vedi però, sedano. Allora, un'insalatina di sedano con scagliette di parmigiano per aprire. Senti che film guarda il dottor Gualersi. Bellissimo, bellissimo. 9 settimane e mezzo, come dimenticarlo. Ma non mi ricordavo del sedano. Comunque, dottor Gualersi, stupisce che nessuno citi il cioccolato. Ci pensiamo noi allora. Dai, perché insomma il cioccolato è l'alimento di questi ultimi anni, è stato riscoperto, tutte le sue proprietà, le virtù, è stato sdoganato, finalmente un peccato, che quello che si è considerato un peccato di gola diventa invece un alleato della nostra salute. Certo non possiamo consumarlo a carrettate, come si dice, ma non dobbiamo sentirci in colpa, anzi mangiamo il cioccolato anche per stare bene. Assolutamente, tra l'altro sia la cardiologia ufficiale con diverse pubblicazioni, sia anch'io ci siamo occupati in questi ultimi tempi proprio di ricercare le azioni del cioccolato. Va subito tolto la confondente che esistono tanti tipi di cioccolato, stiamo parlando di un cacao almeno al 70% e possibilmente senza zucchero, tanto che sono stati creati proprio anche delle sorte di integratori che contengono in questo caso cioccolato con all'interno delle sostanze, quelle che sono state ritenute proprio dalla letteratura le più afrodisiache, come la maca, come la damiana e come il ginkgo biloba, facendo un vero e proprio mix insieme al cioccolato che diventa una sorta di Viagra naturale, sia logicamente per lui che per lei, con il quale appunto possiamo concludere la cena, perché questo abbiamo parlato dell'entrée, ma poi possiamo parlare anche del dolce. Quindi se volete una ricetta, allora stasera si potrebbe sciogliere appunto questo cioccolato che contiene questi ingredienti. Maca, damiana e ginkgo biloba. Se ne trovano in commercio, no? Si possono sciogliere, fatti a bagnomaria, si fanno addensare con la polvere di quinoa, che io tanto amo perché è un toccasana per la natura, e diventa proprio una vera e propria crema che la possiamo utilizzare ad esempio con frutti di bosco, che anch'essi sono antiossidanti, hanno proprietà appunto venotoniche ma anche vasodilatatrici. E quindi ecco che concludiamo la cena con il cacao, con queste piante adattogene all'interno del cacao, con questi frutti di bosco pieni di antiossidanti. Manca solo un po' di champagne, sostanzialmente è il gioco. E poi la Valentina o il Valentino del caso. E se no brindiamo a noi, perché il primo passo per amare gli altri è amare noi stessi. Voglio solamente rapidamente, prima di dare la linea a Debora per i mercati, ricordare proprio a chiusura di una puntata dedicata all'amore la saggezza di un proverbio: meglio soli che male accompagnati. È bene ricordarlo e sottolinearlo, specie in un giorno in cui si celebra l'amore, e quel male accompagnati sta per mancanza di rispetto, violenza, dolore, rabbia, prevaricazione, meglio soli che insieme alla persona sbagliata. E ricordiamo che proprio nel giorno di San Valentino riparte la campagna della Polizia di Stato Questa non è amore, che prevede in tutte le province italiane camper, pullman, gazebo e altri momenti di incontro per rompere l'isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere. Se ti ricatta non è amore, se minaccia te o i tuoi figli non è amore, se ti isola, umilia, offende non è amore, se ti perseguita con mail, sms ossessivi non è amore. Dottor Aquilar, un commento rapido, perché parlare di amore vuol dire parlare del vero amore e non delle forme mascherate dell'amore. Assolutamente sì, sono d'accordo non solo su questa campagna ma sul fatto che è meglio soli che male accompagnati, anche se bene accompagnati ovviamente è meglio ancora. Non dobbiamo avere paura dei periodi di solitudine romantica, ci servono per allenarci, per imparare, per osservare e soprattutto per apprendere dall'esperienza ed elaborarla per nuove e straordinarie relazioni di più alto livello. Torneremo su questo tema con Deborah, adesso scappiamo, salutiamo il dottor Aquila, il dottor Gualerzi e vediamo, i mercati sono innamorati. Da qualche giorno sì. Bene, andiamo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Cuore e denari. Mia nipote lo guarderà 3 volte al giorno, Biancaneve. Immagino, la saprà a memoria, e così i suoi fratelli. Esatto, perché... no vabbè, lei si mette lì in disparte, insomma, a sognare questo epilogo felice di questa storia, un po' travagliata naturalmente, ma insomma torniamo un po' a noi. San Valentino è il giorno degli innamorati, ma qual è il sogno più grande di 2 innamorati? Vivere insieme per sempre, mettere su famiglia, oggi come oggi avere un lavoro, un bel contratto a tempo indeterminato. Perché ci vogliono cuore e denaro. Esatto, vita, cuore e capanna, salute. Ecco. E comprare casa, e però si sa, c'è ancora qualche resistenza da parte delle banche ad accontentare le giovani coppie che magari non hanno un lavoro stabile oppure non possono approfittare delle garanzie offerte da mamma e papà. 2 anni fa, per sostenere le giovani coppie, ma non solo, è stato creato per iniziativa del Ministero dell'Economia e dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, il Fondo di Garanzia Prima Casa, e in 2 anni, proprio da inizio 2015, al sistema bancario italiano sono pervenute circa 14.000 richieste di erogazione di mutuo con la garanzia statale. Come funziona però questo strumento? Per chi avesse perso questa occasione, c'è ancora la possibilità di andare in banca, presentarsi con le credenziali giuste naturalmente e chiedere questo mutuo. Ne parliamo questa mattina con Angelo Peppetti, referente del settore crediti per ABI, appunto l'Associazione delle Banche Italiane. Peppetti, ben ritrovato a Cuore Denari, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Già comprati i cioccolatini per stasera? Assolutamente sì, d'obbligo. Bravo. Allora, tra gennaio 2000, allora naturalmente i microfoni aperti ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24 per farci delle domande sul tema di denari di questa mattina. Fra gennaio 2015 e dicembre 2016 il Fondo di Garanzia Prima Casa ha ricevuto, lo dicevamo poco fa, 14.000 richieste di accesso alle garanzie statali per un valore di mutui superiori a 1 miliardo e 600 milioni di euro. Lo stanziamento iniziale per questo fondo era di circa 600 milioni di euro, se non ricordo male, poi avete ampliato appunto la dotazione. Come giudichiamo, Peppetti, questo bilancio? Ci si aspettava un numero maggiore di richieste o tutto sommato siamo in linea con le aspettative? No, riteniamo che sia un caso di successo di uno strumento finanziario che deve essere utilizzato solo, poiché le risorse sono pubbliche, solo quando ce n'è bisogno e solo su categorie di clienti che magari potrebbero avere maggiori difficoltà nell'accesso al credito. Uh-huh. Facciamo un esempio: il 63% delle richieste e dei mutui che sono stati erogati attraverso l'utilizzo del fondo, che come ricordiamo, è ben utile ricordarlo, che chi accede al fondo non gli potrà essere richieste ulteriori garanzie. Bene, il 63%, come dicevo, riguarda giovani coppie di età inferiore a 35 anni, cioè sono coloro che magari riescono a ottenere un primo lavoro, che hanno magari pochi risparmi da parte e che quindi hanno una maggiore, non dico difficoltà, ma qualche ostacolo nel comprare la casa. Ed è proprio quello l'obiettivo target principale che ci siamo posti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella costituzione di questo strumento. A nostro avviso è un caso, ripeto, di successo molto importante. Circa 1000 operazioni al mese vengono finanziate attraverso finalizzate il fondo, secondo i parametri di questo fondo. E quindi allora il 63% delle richieste sono giunte in prevalenza da giovani di età inferiore ai 35 anni, anche se non esistono limiti di età per l'accesso a questo fondo. Ma io vorrei ritornare a spiegare come funziona, perché si tratta proprio da parte dello Stato di rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale del mutuo ipotecario richiesto. Quindi spieghiamo bene il dettaglio, perché non è uno che va in banca, chiede un mutuo da 200.000 euro e lo Stato appunto garantisce nel caso in cui tu non riesca a pagare. In realtà lo Stato garantisce per una quota di questo mutuo, gli interessi sono a carico nostro e ce ne assumiamo tutte le responsabilità, Peppetti, però per la quota capitale lo Stato ci mette un po' un bollino. Ci spiega esattamente, facendo magari se può un esempio? Certo, diciamo, facciamo il classico esempio dei 100.000 euro ventennali che vengono richiesti in media per l'acquisto delle abitazioni. In questo caso, in caso di insolvenza, lo Stato paga rimborsa alla banca del 50%, ma attenzione, come diceva giustamente lei, l'altro 50% rimane sempre a carico del mutuatario. Questo stiamo parlando in caso di insolvenza. Esattamente, ovviamente. Infatti. In caso di insolvenza, e quindi c'è il rischio, anzi esiste il rischio che in caso di insolvenza si venga escusso comunque l'immobile e quindi si debba andare all'asta per l'immobile stesso. Però è chiaro che questa garanzia riduce fortemente il rischio per la banca e quindi agevola anche la clientela che magari ha un pochino un merito di credito un pochino più basso, appunto tra questi anche le giovani coppie, come giustamente lei comunque ricordava. Non è un fondo dedicato esclusivamente a giovani coppie, perché non c'è alcun tipo di limite di età per l'accesso a questo fondo. Senta, prima di andare a spiegare anche gli altri requisiti che si devono avere, che deve avere anche la casa che vogliamo comprare appunto per poter accedere alla garanzia dello Stato, le chiedo: in questi 2 anni abbiamo detto 14.000 richieste di accesso alle garanzie statali, ci sono già stati anche dei casi di insolvenza per cui è già capitato che lo Stato intervenisse rimpinguare un po' questa parte del mutuo non ripagato? No, non ci sono state segnalazioni di finanziamenti in insolvenza. Ecco, anche perché insomma chi è che fa un mutuo non è che ha proprio l'obiettivo di andare in default nel giro di poco, ha tutto l'interesse naturalmente a continuare a pagare le rate, a tenersi stretta la casa, però insomma è importante che ci sia questa garanzia. Gli immobili che si acquistano con questo mutuo devono avere determinate caratteristiche. Sì, devo dire che l'accesso a fondo richiede veramente pochi requisiti. Allora, l'ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro. E il secondo requisito è che l'immobile non sia un immobile cosiddetto di lusso, quindi non sia nella categoria castelli o ville, oppure che non sia nella categoria catastale A1, quindi comunque sostanzialmente si tratta di immobili nella maggior parte dei casi che conosciamo. Ovviamente si tratta di immobili di natura residenziale e tra questi vengono considerate anche le pertinenze purché collegate all'abitazione che si intende acquistare e questi sono sostanzialmente i parametri. Chiaramente il finanziamento deve essere erogato per l'acquisto dell'abitazione, non per esempio per la ristrutturazione oppure per un finanziamento cosiddetto di liquidità. Può essere quindi erogato per un acquisto dell'immobile, ovvero per l'acquisto e la ristrutturazione per migliorare l'efficienza energetica, ma non può essere utilizzato per finanziare, ripeto, o altre finalità, per esempio ipoteco la casa per altre finalità, ovvero per la ristrutturazione basta, certo, senza acquisto. E l'immobile deve essere evidentemente anche localizzato in Italia. So che è banale ricordarlo, ma la legge lo specifica. Intanto ricordo agli ascoltatori, quindi Nicoletta, se vuoi comprarti con la garanzia dello Stato una casetta a Parigi, niente no, da fare, non peccato. Può fare. 800 24 00 24, il numero verde che vi consente di farci delle domande se volete sapere qualcosa in più rispetto a questo, appunto, che è stato ribattezzato il mutuo. Era stato anche ribattezzato, anche se non era esattamente questo, un po' il mutuo per i lavoratori atipici, anche se in realtà questi finanziamenti il sistema bancario li aveva già proposti a livello commerciale in precedenza, e ce ne sono altri, no? Ce ne sono ancora in circolazione, dottor Peppetti, anche se in realtà poi non piace moltissimo alle banche fare grande campagna pubblicitaria, appunto, rispetto a queste soluzioni, o no? Sì, ricordiamo, allora, innanzitutto questi finanziamenti, questo fondo, scusi, garantisce, come ha detto giustamente lei, anche i lavoratori con un contratto non a tempo indeterminato. Occorre ricordare che ci sono da parte delle banche delle offerte su prodotti specifici, ma bisogna sempre stare attenti che il finanziamento è un finanziamento, o il mutuo è un finanziamento a lungo termine, ha una durata che nella media è ultra ventennale, e obbligatoriamente per legge le banche devono erogare finanziamenti solo una volta che hanno valutato, perché è loro responsabilità, che il cliente sia comunque in grado di dover sostenere le rate nelle scadenze prestabilite proprio nel lungo termine. Quindi, come dire, se da un lato bisogna agevolare sicuramente il finanziamento, bisogna sempre stare attenti ad evitare che poi sia effettivamente un finanziamento e non uno strumento di sovraindebitamento per la clientela. E devo ricordare altresì che l'accesso al fondo non determina un diritto al mutuo, proprio per questo motivo, cioè la banca comunque deve valutare la sostenibilità del credito da parte del cliente nel lungo termine. Ah, ecco, quindi potrebbe essere anche che si ha il diritto ad avere la garanzia dello Stato, ma anche perché poi magari lo spieghiamo bene, Peppetti, effettivamente si deve andare sul sito di Consap, che è la concessionaria servizi assicurativi pubblici, appunto, che gestisce questo fondo insieme a tanti altri, il fondo per le polizze dormienti, il fondo per le vittime della strada, insomma proprio la società del Ministero dell'Economia incaricata di fare queste operazioni. Si può scaricare il modulo per fare l'apposita domanda, con questa domanda si va poi in banca, quindi sulla carta potremo avere anche i requisiti per avere il fondo, per avere la garanzia dello Stato. Detto questo, poi non è detto che la banca ci dica sì. Esatto, anche perché magari il cliente è capitato, quindi sono fatti, come dire, realmente accaduti, aveva già dei mutui in essere, ecco. Quindi chiaramente il proprio reddito non era in grado di sostenere tutte le rate dei finanziamenti che era sottoscritto. Il nostro obiettivo è quello di favorire l'accesso alla casa, non di sovraindebitarlo per poi escludergli l'immobile. Esatto, oppure magari qualche volta abbiamo dei sogni di acquisto di casa un po' troppo esagerati, magari abbiamo messo gli occhi su un'abitazione che costa un po' troppo secondo le nostre capacità di rimborso, e quindi è questo il motivo per cui la banca dice no. Quindi magari ridimensioniamo un pochino anche il nostro sogno, e magari in quel caso la banca può anche accontentare. C'è il traffico, torniamo tra pochissimo. Cuore e denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Eh beh sì, qualche volta magari, come dire, una volta che la banca ce lo concede siamo ben contenti, perché riusciamo a coronare il sogno di tutta la vita, quello dell'acquisto della casa. E molto spesso, un po' più raramente, si pensa invece a quello che è l'impegno di lunghissimo termine che ci assumiamo. Un termine tanto lungo durante il quale possono succedere tante cose, naturalmente tutte belle, perché cresce la famiglia, e però gli impegni finanziari per esempio diventano molto più importanti. Può anche essere che abbiamo un cambiamento nella nostra vita professionale che ci mette un attimo un po' in difficoltà, per cui fate anche questi bei ragionamenti. Non pensate solamente a quanto la banca vi deve dare o a quant'è il tasso di interesse applicato su quel mutuo, ma fate un po' un pensiero anche su tutti quei fattori di cambiamento che durante la vita del mutuo possono intervenire nella vita personale. Detto ciò, stamattina rispieghiamo, visto che San Valentino. Dedichiamo un pensiero alle giovani coppie pronte a mettere su famiglia e a comprare casa, e ci sono anche delle opportunità in banca per questi nuclei potenziali, nuclei familiari. Naturalmente c'è il fondo di garanzia prima casa, che è nato 2 anni fa e che fino a questo momento ha accontentato ben 14.000 persone. No, tra l'altro Angelo Peppetti dell'ABI con noi questa mattina, alcuni ascoltatori ci chiedevano qualche chiarimento a proposito proprio dei profili che possono fare questa richiesta. Non è solamente per le coppie o giovani coppie, ma anche per esempio per nuclei familiari monogenitoriali. La legge dice così, ma insomma per single... Diciamo che per queste categorie c'è addirittura un accesso privilegiato, altrimenti, così come per le giovani coppie o per i giovani con età inferiore a 35 anni, ovvero con coloro che hanno un contratto di lavoro non a tempo indeterminato, per il resto comunque tutti, a prescindere dall'età e a prescindere dal proprio reddito, possono accedere o richiedere l'accesso al fondo. E, ripeto, ci sono solo 2 requisiti. Il primo riguarda l'abitazione con le caratteristiche che abbiamo ricordato prima, cioè non di lusso e ubicato in Italia, che il finanziamento sia erogato per l'acquisto delle abitazioni e che non sia di ammontare superiore a 250.000 euro, che comunque è un ammontare abbastanza significativo. Infatti ha fatto bene a precisarlo questo aspetto, perché c'è anche chi sta dicendo vabbè, ma solo fino a 250.000 euro, ma a me sembra che ci si possa comprare anche una signora a casa adesso. Senti che come se la ride per Peppetti, mi sembra un ammontare abbastanza significativo, anche perché poi voglio dire, l'ammontare è correlato all'importo della rata che si deve pagare. E quindi poi bisogna avere uno stipendio veramente significativo per poter sostenere una rata. Ricordo che le banche valutano in genere un rapporto rata-reddito che non sia superiore al 33%. Io dico sempre che se anche un po' inferiore reddito, anche meglio, insomma, che siamo in una... Sì, perché si deve, è giusto, perché si deve tener conto anche delle altre spese, che non solo la casa... Ma c'è la macchina, c'è il dentista, gli avvenimenti, la vita, c'hai 2 figli, arriva un genitore che ha bisogno di essere aiutato. Cioè, ragazzi, veramente, qua se la banca dice no qualche volta ci fa anche indispettire, ma non è che sia sempre, come dire, una circostanza negativa qualche volta il rifiuto del mutuo, se abbiamo una condizione proprio al limite per poterlo ottenere. C'è Mario da Pescara per lei, Peppetti, buongiorno Mario, benvenuto. Sì, salve, buongiorno. Intanto ragazzi, ci dica se come i fiori... State? Con a posto, ma, sì. Ma noi sì, tutto grazie. Mario, no, senta, ma lei fiori e cioccolatini oggi a posto? Sì, come no, io vendo il cioccolato modicano, quindi diciamo che è il miglior cioccolato che esista al mondo, diciamo, ecco, che è perfetto, fatto diciamo in una certa maniera. Bene, ci comunque dica. Io volevo chiedere all'ospite che avete lì, sì, i limiti di età, perché io sono un pensionato. Ovviamente essendo un pensionato, essendo sfrattato, perché le persone qua ora vendono case e non l'affittano più, ho bisogno eventualmente, siccome non riesco a capitarlo una casa in affitto, mi è venuta l'idea eventualmente di comprarla, però vorrei capire diciamo i limiti di età che si può diciamo accedere a questo fondo di garanzia che dicevate voi, ecco tutto lì. Grazie Mario. Peppetti, allora adesso che mi tocca andare a vedere un po' l'età di Mario, però insomma allora, è un po' più adulto rispetto a quella che abbiamo citato fino ad ora, 30-35 anni. Sì, no, questo penso sia un discorso generale, di là del fondo, non ci sono regole specifiche per quanto riguarda i limiti d'età, né di accesso per quanto riguarda il fondo. È chiaro che un mutuo ha una durata, come dicevo prima, che è ultraventennale, quindi bisogna anche tener conto della durata fisiologica della vita di ognuno di noi, e quindi in genere non si eroga un finanziamento a soggetti per i quali il termine del mutuo è corrispondente ad un'età superiore a 75 anni. Questo anche perché mi pare che Mario sia anche di età superiore a questa, per cui forse è un pochino più complicato, ecco, certo, accedere. Allora, si vuole evitare di lasciare un debito anche agli eredi, insomma. Infatti. Senta, vedo che è possibile chiedere la garanzia di Stato anche se si volesse acquistare alloggi di proprietà degli ACP. Che sì. sono quelli comunali, le case popolari, no? Sociali, che hanno una finalità sociale. E va ricordato anche, secondo me anche questo è un tema molto importante che spesso non viene sottolineato, siccome la regola è che i finanziamenti non devono superare l'80% del valore dell'immobile, in realtà questo fondo consente, proprio perché copre il 50% della quota capitale, di poter ottenere finanziamenti al 100%. Quindi anche questo è un tema che va considerato, se non si hanno magari tutte le disponibilità, diciamo, per poter acquistare o anticipare l'acquisto dell'immobile. Quindi ha anche questa capacità, cioè di poter finanziare fino al 100%. Senta Peppetti, in realtà abbiamo quasi chiuso il tempo a nostra disposizione, ma sui tassi di interesse ovviamente il finanziamento si può fare sia a tasso fisso che variabile, o la legge indica qualcosa di preciso su questo? No, la legge è dipende da quello che serve a noi. Sì, dipende dalla volontà del cliente. Certo, un'ultima cosa, c'era Franco, voleva intervenire, non ce la facciamo, ma glielo leggo io l'anticipazione della domanda del nostro ascoltatore che chiede: per caso è retroattivo perché sua figlia ha comprato casa 2 mesi fa a Milano, perché le banche non dicono nulla? Allora perché dobbiamo fare noi il lavoro della radio? Perché quando si va in banca non è la banca che dice: guarda, hai tutti i requisiti, perché non provi a fare la richiesta secondo questa modalità? So che lei mi dirà non è vero, le banche lo dicono, però in realtà io le dico che non è vero. E faccia un po' di moral suasion tra le banche. Allora, come dicevo prima, il fondo dovrebbe essere usato per chi effettivamente ne ha bisogno, perché sono soldini pubblici. Quindi se probabilmente il figlio del signore che ci ha scritto non aveva bisogno del fondo perché aveva le proprie capacità. Mettiamo che sia così, Vale, diamo retta. Grazie ad Angelo Peppetti per tutte le domande che sono rimaste in evase. Scriveteci a cuoredenari@radio24.it. Adesso intaseremo gli sportelli bancari con i moduli della Consab, con la richiesta appunto della garanzia statale, la moral suasion, una sorta un po' di persuasione morale da fare alle banche. Sì, un termine che è stato coniato anche qualche tempo fa nel bel mezzo della crisi finanziaria. So che finanza e morale hanno ben poco da spartire, Nicoletta, però qualche volta è così. Grazie ad Angelo Peppetti. Nicoletta, torniamo domani. Sì, io non ci sarò, ma io torno giovedì. Buona giornata a tutti.